Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono e lo ricordo, stasera ospiti gli Holborn. Con voi e con loro ascolteremo 6 brani del CD New Rock Generation, con il primo che è andato in onda, titolo? Life Goes On, il nostro singolo dal quale abbiamo anche realizzato un bellissimo videoclip che vi invitiamo ad andare a vedere su YouTube. La vostra esperienza durante la registrazione, quali sono le linee guida che hanno tracciato questo primo disco? Come pensate che sia andata? Beh, innanzitutto è andata molto bene e facendo anche conto che era la nostra prima e vera registrazione in uno studio e sono stati 6 mesi di duro lavoro, ci siamo impegnati tantissimo, sono stati molto faticosi e abbiamo alternato momenti di gioia e momenti un po' di tristezza. Più faticosi. Sì, sì. Più faticosi. Capita, dai, insomma. Sì, fa parte del gioco, insomma, ecco. Certo, bisogna accettarlo. Devo dire comunque che abbiamo avuto anche un piccolo aiuto dall'esperto staff dell'Emotion Records, dove abbiamo registrato. Che ringraziamo. Sì, decisamente. Comunque è stata una bellissima esperienza che ci ha formato anche, insomma. E noi speriamo di ripeterla il più presto possibile. Ok, la prossima canzone per i nostri ascoltatori. La prossima canzone è Coma, la terza traccia del nostro CD, dalla quale abbiamo anche avuto una collaborazione, esatto, con la cantante delle Cherry Lips, Stefania Parks. Che ringraziamo. Somebody that can help me. Why are you here? Wishing for a move of my arm. You stand. Celebration never happens. Sleeping of death. Darken my eyes to the blindness. I'm trying to reach out to your hand. Show all my glory. Sleep out of my heart. Siamo sempre agli Holborn, capitolo recensioni musicali, quali le più importanti, che cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa i giornalisti hanno segnalato. Allora, le recensioni più importanti, sicuramente quella di Rolling Stone, la recensione che ci ha fatto il Mucchio, Rock Rebel Magazine e molte altre che vi invitiamo ad andare a leggere nel nostro sito ufficiale www.holborn.net. Devo dire che siamo veramente soddisfatti anche delle nostre recensioni. E i commenti fatti da tutti sono stati la nostra giovanissima età, perché noi abbiamo in media di media 20 anni, insomma. E nonostante questo, la nostra capacità di produrre dei pezzi già sostanzialmente maturi, insomma. Buono. Prossima canzone? La prossima canzone è Nightmare, la canzone più hard, più cattiva del nostro album. Bene. Beccatevela tutta. Torneremo breve per la quarta parte di Rock Legends con gli Holborn.